e non ci arrivi con il coppo. Poi ci vorrà quella paracadute. Ah, casino, è un rischio perché se si scaccia salendo è un casino. Sì, c'è anche ha fatto bene che non si scaccia, se c'è un ramo non si scaccia per me. Se c'è la punta si può strappare e scappare. E quello era un po' di parte migliore. E non capisco chi ci andava a scaccia. Oh, lì è andato perché io non sono mai andato lì, nella verità. Io massimo che mi sono allontanato dalla zona di Sorso e alla rotonda di Platamo. No, io alla rotonda non ho mai pescato, non ci sono mai andato. Ma si pesca? Ma ci sono andato 4 volte, ci sono andato con amici, mai in Uga che brilla, né io né là. È contento che ci sono gli scuri. Ci arrivare sotto gli scuri, che sono le 6 che gli scuri da voi. Se riesci a arrivare vicino agli scuri, qualche cosa ti spetta, almeno Sara di roba così. Penso di sì, infatti sono andato tutto per quello, perché c'erano gli scuri, e c'era questa abitudine e lì ci andava sempre lì, e li prendeva il pesce. Dopo andato 4 volte, non è che mai inizia, gli scusaggi di Calabria. Io vado in un punto che c'è solo una parte che c'è che è sabbiosa, tutto, solo una pista da diciamo, che è sabbiosa, ma è tutto scuro. Lancio lì, è sempre pesco, sempre pescato, non va bene, cartonate grosse, però si discute appena appena in cucci, non vedo da lì va. Un giorno ero lì a Coso, adesso non mi ricordo che settimana, mi sembra che sia soffitto, non lo sai, dove c'era Mallao lì, il bar. Stavo pescando, ed ero da solo ero io. E in spiaggia, proprio a Bagnasciuga, adesso vedevo, ho aggiunto su due dosi, due marraggi, gatti roga. A da bugliare lì. Ah, perché ha lanciato, il tuo l'ha fatto tutto, mi sono avvicinato, ha giunto la mano e non si bisogna di avvicinare verso, era un po'. E quindi erano i due, ha giocato a me, e gli ha giocato le cose, ha detto, ha già guardato, aveva già cucito in spiaggia, ha detto, la mano non è l'udolo. Invece a me una volta mi si è attaccata la canna con bagliani armi e toccato le aghe che ci sono, fa una barruta. E invece cazzo, e la mi dico, no, è un polpo già, non lo buttare, stavo per tirarmelo, capito? Un polpo, non era grande, però un chiletto c'è. Belli erano quelli che ho preso io. Poi io ho fatto allora cosa ho fatto? Veloce. Ho entrato la mano, l'ho agguantato e l'ho lanciato, veloce. E non ha girato un tempo di attaccarmi. E tutti e due, Sergio tutti e due, ha girato. Beh, c'era quasi 2 chili di furti c'erano in quei due. Io una volta un po' complicato, ho preso una sibbia rossa che ha morsicato, perché non sapevo che la sibbia morsicasse, non so. Ma è tutto mia mossa, la mia zibbia, cosa c'è? E gli ha detto, ma morsicato, e gli ha detto, non sai che la sibbia morsicchia, e gli ha detto, ma hai visto lei, che becco che c'è? E che se mi ha fatto il segno rosso, che mi ha fatto un bel male, dico, tutti i chili. Anche le morsicchia io. Ma non è ancora tipo da pagarlo qua. E quello lì, non hai mai comprato una sebbia e non l'hai mai pulita? Sì, se te ne prendevo meglio. Ho preso anche i 12 una volta. Ah, non ti sei accorto mai che c'aveva la bocca, che c'aveva il becco? Sì, lo so che ce l'ha, però che morsicava non lo sapevo, che morsicava le persone. Ne ho preso 12 una volta, io non posso che avevo scoperto, lanciavo sotto una roccia, c'era sabbia e roccia del mese, lanciavo sotto questa roccia e mi cavavo una sibbia. Una volta me ne sono attaccati due insieme, che avevo la corretta col piombino sopra. E mi sembra che se ne sono attaccati. Io invece quando lavoravo avevo sempre la fiocina in macchina, c'avevo gli stivali e andavo lì a Perulegda, andavo giù dopo come si chiama? Andando verso Castelsardo, là, quasi vicino a Castelsardo, al bagno, e andavo lì la mattina ed era, c'era un coso piatto, sembrava con, io passando avevo i piedi in acqua solo, e gli stivali no, proprio saranno 30 cm d'acqua, neanche. Andavo, mi prendevo, tutte le mattine mi prendevo 4, 5 seppie, 2, 3 polsi e poi mi andavo via. Proprio, quando uscivo proprio da lavorare, la mattina presto. Ci sono, sì. Se hai fortuna, poi la zona di Castelsardo è piena di polsi. Lì è quella zona lì, dopo Marrita, più avanti molto. E ci andavo spesso. Poi dove sono andato qui, dove sono andato, sono andato adesso quando sono andato in pensione, ci sono andato una volta, ci sono andato, ma non ho preso nulla. No, non è preso nulla, non si è visto niente già, nulla, non si è battuto, perché ci deve essere sempre gente. Io andavo, come cavolo si chiama, ma dove c'è quel pastore dell'Elenco, alla Castelsardo sempre. Ho capito, ci andavo io anche lì a pescare, appunto a Tramontana. Esatto, appunto a Tramontana, non mi ricordo. Sì, sì, ma adesso non si può entrare più lì. Già lo so, ma non si calcetta. È un casino, se entri lì ci sono le guardie che rompono le scatole. Magari non ti faranno verbale, ma la buttano su. Sì, come a Piume Santo, basta che ti fai amici, le guardie, c'era uno che entrava, ci sono dei vasconi a Piume Santo, dove ci sono dei cicli dell'acqua, e lì si praticamente entrano le orate piccoline, quindi diventano grandi dentro, e vanno a pescare, che si vedono a mezzo di orata, e entrava questo qui con una motocarrozzella, lo facciamo entrare la guardia di orata, poi tu la discesi, regalava un'orata e se ne andava. Cate, questo qui si riempiva la moto di orata, perché lì è più pieno, c'è proprio un ambiente marino, ci sono bici, tutto qua, io l'ho visto questo vascone, ho guardato, è trasparente là. Sì, già li conosco, davvero ero lì, ci ho lavorato quasi 2 anni lì, ci ho lavorato. E quindi già lo sa. E la guardia faccia entrare questo molto caro te, regalava l'orata, regalava. C'è la guardia che sono d'accordo, sì. A noi, a chi lavorava lì, no. Quando ci vedevano avvicinarci, ci diceva la guardia, lo sapete che non potete avvicinarvi. Ma ci hanno chiuso tutto lì, dove andavamo prima. E lì facevamo anche la, come si chiama, non la selle, adesso non mi ricordo cosa era, ma va bene, si gioca tipo, non me lo ricordo. Esatto, lì facevamo la sicile. Prima c'era gente che diceva guardate per volare e poi tirava. E mi davamo il puro grandi risate, e grandi risate e tratta la bambina. E tutto nei figli che hanno riuscito. E guarda, era bello, era perché andavi lì, ti potevi mettere a pescare, oppure ti facevi un po' di yoga e ti mandavi lì. E risulto, mi ha dato di vita una sera, una giubbata. E poi mi sono andato, la prima giubbia di vita in mare, il becco. Quello lì fatto con la passaggetta, se vuoi cosa vuoi, là c'è una rotta in mezzo all'eva salita e dopo te ne mangi, insomma. Anche due giorni le lasciavo io. Per togliere la sabbia che ci hanno detto, si lasciano. E allora? per pulirli, escono più puliti, se no se non li pulisci bene, li fai sfruttare bene, c'è fango anche dentro, c'è tutto. Vabbè, e sabbia, perché vanno nei posti fangosi, ragioni per sì, è tutto, tutto quella fangosa lì, infatti quando tu metti il raffreddo lì, ne togli tutto il fango, e poi quando lo metti nell'acqua che lo risciacqui, vedi che riesci a vedere la roba, la gioca là. Ma non lo so se si possa fare con la pecina. Ah, io so che ti è stata, noi la facevamo lo stesso, perché tanto nessuno ci diceva niente. Infatti io finché che non mi ha detto niente nessuno, ho continuato ad andarci a farmi. Quando mi hanno detto, infatti una volta mi hanno detto che non si poteva più andare, non si può più andare. E noi abbiamo trovato un tappeto, siamo arrivati fino alla spiaggia, di partire con la macchina, e siamo messi di fronte a buscare. Ma adesso c'è il cancello però lì. No, è più libero. Non vero. Quando è? Vabbè, adesso è 4, quasi 6 anni, forse non di più pure, che io non vado più a Fiume Santo. E vedevo quando passavo lì, che ritornavo a casa, uscendo dal lavoro, vedevo che era chiuso, che c'era un cancello. Allora hanno di nuovo riaperto tutto quanto. Siamo qui verso reciprocamente a lui, stava facendo un po' di freddo, perché siamo andati da una luna e mezza, abbiamo mangiato un paio di e niente, praticamente anzi credo ci siamo portati. E lì poi siamo arrivati dei ragazzi equipaggiati con le tute, quelle tipo squadra, e per non tirare freddo da pesca. I quali tutto quanto stavano cominciando a buttare le rette per i calamari, lì dice che c'è un fondale alto e si pescavano per i calamari. Sì, perché lì c'è l'acqua fredda, è ghiacciata, aveva lì. Ma non è il contrario, non è che a Fiume Santo ricicla l'acqua che quella calda la butta fuori e prende quella fredda del mare. Ah boh, non so come funziona. Io so che prendono l'acqua dal mare, poi la depurano, hanno i depuratori. Io so che prendono l'acqua dal mare per raffreddare i buchi, e poi quella che c'è calda all'interno la ricicla tutta in mare, e quella fredda la fa entrare dentro per raffreddare i buchi. E non so come funzioni, però la frase è quella lì, è quella che butta calda, dice che arrivano le razze, ci sono quelli pesci di notte, specialmente dice che si pesca. Sì, perfetta. Ma io sapevo che lì venivano molto i tipi di pesci, quelli che vivono in acque fredde, in acque ghiacciate, quei tipi di pesci lì. Sapevo che venivano molto lì, in quella zona. Poi l'altro resto lo so. Cosa ho sentito dire che noi policiano, non so se sia vero, però così mi hanno detto che praticamente c'è l'acqua calda che attira le razze. Può darsi che sia qualcuno che te l'ha detto che lo sa. Se operatore Enel di Fiume Santo lo sa. Quello lì, quelli lì lo sanno come funziona. E io infatti stavo rispondendo alla domanda. Comunque diciamo che la pesca sta un po' stufando, perché qui mandavo qui da un certo va, mi hanno detto che non si riesce niente, che la mette un giorno lontano, che c'è le gambine, che è stata tutta morta. E chi la lascia dietro, la lascia sempre in fissa, non ha mai tirato un pesce. E sempre brisa, però già, non vedrò mezz'anno io. Ah, lascia così, senza conte, non ci va nessuno, non ci va. La mette di giorno, tutto il giorno, ma sta lui e poi se ne ritorna in cabina e lui ha vista lì. Ecco. Allora sì. Caspita, sentivo un rumore, lei la ventola della radio, ma guarda un po', non si sentiva mai, adesso sta cominciando a sentirsi, bisogna aprire e pulirla. Sono io qua, Martino, ma sai? Da casa a Sant'Orso non è che ci voglia chissà cosa, No vabbè, comunque io sono un amico, adesso iniziano a depositare, là, quindi perlomeno così, ma adesso io non sono esperto. Al mercato ci vogliono i soldi, Marco. Buonasera. Quelli che ho la fanno. Tu non ci stai andando? Ciao Bruno, pensavo di Marco perché arrivi con lo stesso segnale qua, comunque Franco da sotto, Bruno. Sono sotto un pochino, però se quasi arriviamo in correre, ragazzi, quasi attacca. Perché sono tanto la pensavo di questa stazione di più, però è pazienza. E poi ci arriviamo, io non ce la barca, adesso sto prendendo una carta proprio in più. Bruno, viva! Bruno, ma a me mi ascolta Bruno. Lo ascolti a... Va bene, adesso mi ascolti? Adesso sì, un pochino sì, abbiamo qualcosa. Come mai mi ascolta basso, Bruno? Quale zona è? No, io non ho aumentato niente, sono sempre nella stessa... allo stesso livello. Ho alzato leggermente la voce. Scatole di americani. Ma già, come sai? Non mi ha mai detto. Va bene, caccia non vedi sempre, anche se vengo là tutta insomma, ma faccio lo dice. E vabbè, è la passione, è più la passione. Io vado d'estate di notte, prima non ci va. Dove sta modulando Bruno? Ci ho chiesto dove stai modulando. Sì, ma allora avrei qualche problema all'antenna, vuoi un antennino, cos'è? Infatti dai, io sono verso la Peor, cioè sono vicino in linea d'aria a Gianni, per quello mi chiedevo, pensavo che in qualche paese, in qualche zona, non so, più lontano della Peor, cioè. Mentre invece Franco, l'altro amico, sta modulando da solo, cioè avanti Franco. Scappa. Allora lì se 100 metri da Gianni mi dovresti ascoltare molto meglio. Va bene, dimmi una cosa Bruno, a Portoferro da dove vai a pescare? Negli scogli oppure dalla spiaggia? Bruno, non hai capito da te? Danilo si è spaventato, deve essere, non avrà smontato il microfono, l'ha smontato. Lottino. Sicuramente aveva problemi, perlomeno io l'ho ascoltato un po' frusciante, ecco, poi non era modulazione cambodiana, ecco, poi ognuno magari sta controllando qualche connessione, qualche filo, che lo sa. Magari bisogna entrare nel menu e controllare a vedere se magari ci sono imparato da me. Sì, a me mi sembrava più altra roba che era dall'esterno della radio, qualche tipo vento e queste cose qua, c'è qualcosa che stava facendo rumore. Allora in un primo momento anche a me, poi quando l'ho ascoltato bene solo portante muta faceva questo tipo un filo che va, tocca non tocca, no sai, con quei fili a... una cosa del genere. Una cosa qua, ma hai qualche uccellino in casa? No, è il telefonino che mi ha avvisato che devo prendere la pastiglia. Ah, ecco. No, perché io ne ho due qua, Allora anche Franco è un simbolo. Adesso non tanto uno piano piano, Scappa, no, è la suoneria del telefonino della sveglia, che ho messo a quest'ora devo prendere una pastiglia, allora mi ha avvisato. Bene, va bene, ragazzi, sono in Corrix che devo fare due cose, dopo la 2000, ne approfitto ora, dai, così vi ascolto e poi riprendo. Vai Gianni. Sono già alle 8, non sbaglio. No. Sì, sono già alle 8 e io devo andare anche a prendere la pastiglia. Oh, arrivate, dai, già ci sentiamo alle prossimine. Ciao Tino, non proseguo, e ciao Gianni e ciao Bruno, alle prossimine, se ci siete al limite domani, se coincide. Avanti Gianni, fai girare, buonasera, i corretti per me. Ok, allora, ciao Franco, buona carica, cosa la fai, ciao anche a te. Hanno di intendere, avanti Bruno. E chi non c'è che mangia più nessuno, sono tutti alla figlia. Andate a mangiare, io. Purtroppo ho visto che non torniamo, e adesso il cane mi sta avvisando, lo stesso che lo dice. Sta già mogognando, alle 8 in punto lui sa già che deve scendere. Ciao Bruno, ci sentiamo.